We ducked inside the doorways, thunder went crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the city's melted furnace, unexpectedly we watched, with faces hidden as the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the bells of the lightning. Tolling for the rebel, tolling for the rake, tolling for the luckless, they are abandoned and forsake. Tolling for the outcast, burning constantly at stake. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Through the mad, mystic hammering of the wild, ripping hail, the sky cracked its palms in naked wonder as the clinging of the church bells blew far into the breeze, leaving only bells of lightning and its thunder. Striking for the gentle, striking for the kind, striking for the guardians and protectors of the mind. And the poet and the painter far behind his rightful time. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. In the wild cathedral evening, the rain unraveled tales for the disrobed faceless forms of no position. Tolling for the tongues with no place to bring their thoughts, all down in taken for granted situations. Tolling for the deaf and blind, tolling for the mute, for the mistreated mateless mother, the mistitled prostitute, for the misdemeanor outlaw, chained and cheated by pursuit. And we gazed upon the chimes of freedom flashing. Even though a cloud's white curtain in a far-off corner flared, and the hypnotic splattered mist was slowly lifting, electric light still struck like arrows Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie, oggi dedicato, come di consueto, il mercoledì e il venerdì, alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo con l'Africa, oggi cominciamo con il Sud Sudan, dove sembrerebbe raggiunto l'accordo per un governo di unità tra il presidente Salva Kiir e l'ex rivale, nonché ex vicepresidente, Riek Machar. L'annuncio è stato dato ieri da Salva Kiir e arriva al termine del periodo di proroga chiesto da entrambe le parti a novembre, quando un primo tentativo di intesa si era bloccato su molte questioni ancora irrisolte. Ieri Reporters sans Frontières ha pubblicato il suo report annuale sui giornalisti uccisi, detenuti, dispersi o ostaggi nel mondo. I dati per l'Africa non sono confortanti. Un sesto del totale dei giornalisti uccisi era africano e nel continente ci sono 47 giornalisti imprigionati, di cui 19 nella sola Africa subsahariana, in particolare in Egitto. Per il terzo anno consecutivo è la Somalia a detenere il brutto primato dei morti. Tre giornalisti uccisi, tra cui Odan Nalaye, la giornalista somalo-canadese assassinata deliberatamente. Così come deliberatamente è stato ucciso in Ghana il giornalista investigativo Ahmed Hussein Suale, che si occupava della corruzione nel mondo del calcio, o in Repubblica Democratica del Congo Papi Mamba Mumbere, per essersi occupato di trasmissioni di sensibilizzazione sul virus Ebola e sulla necessità delle vaccinazioni. Trovate il link al rapporto sul nostro sito. Niger e i partiti che compongono l'attuale maggioranza presidenziale hanno pubblicato ieri una dichiarazione di sostegno alle truppe straniere nel paese, in particolare a quelle francesi e statunitensi. Il loro comunicato è frutto di una loro riunione arrivata al termine del vertice C5 Sahel organizzato domenica. Dopo le critiche dell'opposizione, che ha denunciato l'ingerenza straniera e gli interessi economici dei paesi partecipanti alla coalizione, i sostenitori del presidente nigerino Issoufou hanno a loro volta criticato gli oppositori, affermando che la Francia ha ormai pochi interessi e che gli Stati Uniti hanno solo quello della base militare di Agadez e che gli unici che traggono beneficio dalle risorse del paese sono i cinesi, che però non hanno nessun soldato. Il presidente francese Macron ha annunciato che il 22 dicembre sarà in Niger per una breve visita e per un colloquio con il presidente Issoufou in vista del vertice del 13 gennaio prossimo che si svolgerà nel sud-ovest della Francia e che è stato chiesto proprio da Macron per avere un chiaro appoggio da parte del presidente del gruppo G5 Sahel di fronte alle critiche dell'opposizione. In questo contesto si inserisce appunto la lettera di cui vi abbiamo parlato. Gambia, migliaia di persone in piazza lunedì per dire al presidente Adama Barrow che non hanno dimenticato la promessa da lui fatta all'inizio del suo mandato, quella di restare in carica solo 3 anni e non 5 come prevede la legge, per portare il paese fuori dal ventennio di Yahya Jammeh e ricominciare da capo. Secondo quella promessa, Barrow dovrebbe lasciare l'incarico al più tardi il 19 gennaio, ma non sembrerebbe disponibile a farlo, non ne ha mai parlato negli ultimi tempi e anzi ha fatto più volte accenno a voler concludere il mandato, dicono gli organizzatori della manifestazione di ieri. Algeria presterà giuramento domani il nuovo presidente Abdelmajid Tebboune, vincitore delle elezioni del 12 dicembre, largamente boicottate dalla popolazione. Allo scrutinio, lo ricordiamo, ha partecipato meno del 40% degli aventi diritto. Il movimento di contestazione Hirak continua la sua protesta nonostante l'offerta di Tebboune di aprire un dialogo. Europa, Repubblica Ceca, Praga, ancora migliaia di persone in piazza contro il premier Andrej Babiš, di cui da mesi chiedono le dimissioni. La polizia parla di 15.000 manifestanti, gli organizzatori di decine di migliaia. In piazza, a conclusione della manifestazione, tutti i partiti dell'opposizione hanno avuto l'opportunità di parlare per 7 minuti ciascuno. Babiš ribadisce che non si ritirerà, ma che rispetta il diritto delle persone a protestare. Grecia, in aumento il numero di migranti irregolari in arrivo dalla Turchia, secondo un rapporto della Commissione europea che doveva essere confidenziale ma che è stato diffuso agli organi di stampa. Secondo il rapporto sono 70.002 gli ingressi, con un aumento del 46%. Di questi, 67.741 sono arrivati in Grecia, circa 1.800 in Italia, 260 a Cipro e quasi 200 in Bulgaria. Solo nella giornata di ieri sono arrivate in Grecia quasi 500 persone, per lo più nelle isole. cambiano i paesi di provenienza. Secondo gli stessi dati dell'Unione Europea, il 30% delle domande di asilo in Grecia sono state presentate da afghani, il 14% da siriani, seguiti poi da pakistani e iracheni. Il 5% delle domande è di cittadini turchi. Francia, le cifre dei sindacati parlano di quasi 2 milioni di persone in piazza, 1 milione e 8 per la precisione, quelle del Ministero dell'Interno di 615.000. Che siano i dati dei primi o dei secondi a essere veritieri, quel che è indubbio è che a quasi 2 settimane dal suo inizio lo sciopero contro la riforma delle pensioni non sta perdendo di intensità. Anzi, secondo il sindacato, la mobilitazione aumenta con il passare dei giorni e nella maggior parte dei settori non ci sarà la auspicata tregua di Natale. Ieri a Parigi intanto la manifestazione si è conclusa a Place de la Nation con cariche da parte della polizia che ha lanciato granate lacrimogene colpendo i manifestanti alla testa. La prefettura ha detto che si è trattato di un'azione per disperdere un cordone di black bloc. Quella parigina non è stata l'unica manifestazione comunque dove la polizia ha caricato. Analoghe situazioni si sono registrate a Toulouse, a Lille e in altre città. Oggi intanto nuove proteste, a partire dallo sciopero dei mezzi pubblici. Sulla fronte politico, questa mattina al Consiglio dei Ministri ci sarà Laurent Pietraszewski, la cui nomina ufficiale è comparsa oggi sulla Gazzetta francese. Pietraszewski va a sostituire Jean-Paul Delevoye, finora incaricato di gestire il dossier sulle pensioni, ma apprezzato e costretto alle dimissioni dopo una serie di mancate dichiarazioni fiscali. E sciopera anche il Belgio, ma a partire da stasera alle 22, quando si fermeranno i trasporti per 24 ore. La società ferroviaria tenta di garantire il 30% dei treni, contando sul personale che ha comunicato di non partecipare allo sciopero, ma l'adesione è ancora incerta. Germania, forse a un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, ma alla fine il ministro degli interni Horst Seehofer ha ammesso che la Germania ha un problema di estremismo di destra non solo sulla scena illegale ma anche al suo interno, nei ranghi della pubblica amministrazione e degli addetti alla sicurezza. Ieri Seehofer ha annunciato la creazione di un ufficio centrale per il chiarimento delle attività estremiste di destra nel servizio pubblico. Nel solo 2018 8 funzionari federali sono stati messi sotto accusa per attività legate al neonazismo ed era un'attività non di poco conto. All'inizio del prossimo anno l'Ufficio per la protezione della Costituzione, cioè servizi segreti interni, presenterà il suo rapporto sulla situazione nella pubblica amministrazione, ma la mossa di Seehofer prelude già a quello che sarà contenuto nel rapporto. Nell'ultimo anno, per esempio, nell'esercito sono emersi 30 casi di persone non leali alla Costituzione, per usare il termine indicato dal servizio di controllo militare. Secondo il presidente della commissione parlamentare di controllo, i casi finora emersi sono troppi, ma non si può parlare di esercito ombra. Eppure proprio in questi giorni si sta svolgendo il processo a un ex poliziotto dei gruppi di elite, accusato di far parte di una rete di militari pronta a sollevarsi a una ipotetica ora X. L'accusa nei confronti di questo ex poliziotto è per ora soltanto di violazione della legge sulle armi. Quanto alla presenza dell'estrema destra nella società, gli ultimi dati parlano di 32.200 persone. L'anno precedente, sempre secondo i servizi segreti interni, erano 24.100. L'aumento è dato principalmente dalle diverse formazioni giovanili affiliate a Alternative for Deutschland. E a proposito di Alternative for Deutschland, il capo del partito in Turingia, Björn Höcke, non sarà più invitato come ospite nei talk show di ZDF, il canale pubblico tedesco fondato nel 1961. A dirlo in una intervista a Die Zeit è stato il caporedattore dell'emittente, Peter Frey. Non si tratta di un politico come gli altri, ha spiegato Frey, ma di un estremista di destra dichiarato. Come televisione, ha aggiunto, non dobbiamo tifare per una o l'altra parte, però dobbiamo chiaramente dire dove corrono i confini del sentimento democratico. L'uguaglianza di genere resta un'utopia e non solo per questa generazione, ma per molte altre ancora, stando ai dati del rapporto sul divario di genere 2020 del World Economic Forum, pubblicato ieri. I 4 criteri che vengono analizzati, la rappresentanza politica, la salute e aspettativa di vita, l'istruzione e la retribuzione economica, non vanno tutti di pari passo. Se per istruzione e salute il divario è quasi colmato, per la rappresentanza politica ancora ci vuole quasi un secolo. Ma quel che sta peggio e torna indietro rispetto agli anni precedenti è l'uguaglianza economica di genere. Si avrà solo nel 2276, cioè tra più di un quarto di millennio. Dei primi 10 paesi nella classifica globale, 7 sono europei, 1 africano, il Ruanda, 1 centroamericano, il Nicaragua e infine la Nuova Zelanda. Tra i tanti dati riportati, interessante quello sul lavoro non retribuito. Non esiste un paese in cui gli uomini facciano la stessa quantità di lavoro non retribuito delle donne e nei paesi il cui rapporto è più basso è ancora 2-1. Austria, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, le università dovranno prevedere a partire dal 1 gennaio del prossimo anno una terza opzione di genere nelle loro statistiche e nella documentazione da rilasciare. Oltre alla lettera M per männlich maschile e W per weiblich femminile, sarà prevista la lettera X per chiunque non sia identificabile o non si identifichi in uno dei due generi. La Corte Suprema lo scorso anno aveva stabilito che le persone intersessuali, il cui genere non è chiaramente maschio o femmina, abbiano il diritto di vedere questo riconosciuto anche nei documenti, nel registro dello Stato civile. Di conseguenza anche l'università si deve adeguare. Per l'occasione l'Università di Vienna ha deciso anche di modificare il linguaggio e ha pubblicato una guida all'uso del linguaggio inclusivo di genere, spiegando che devono essere scelte le formulazioni che esprimono uguaglianza linguistica e che rispettano il fatto che alcune persone non sono né donne né uomini. Spagna, la crisi sarà anche finita, ma i giovani non ce la fanno a pagare l'affitto. Secondo un nuovo studio dell'Osservatorio sull'emancipazione, serve il 94% dello stipendio, cifra che in Catalogna arriva al 119% di quello che uno guadagna. L'unica soluzione resta quella di un appartamento condiviso e anche in questo caso se ne va quasi la metà del salario. Per questo motivo, oltre il 60% dei giovani tra i 25 e i 29 anni vive ancora con i genitori. La cifra arriva a oltre l'80% se si conta la fascia tra i 16 e i 34 anni. Acquistare una casa è ancora più difficile, ovviamente. La parte di denaro da dover mettere e anticipare per accedere a un mutuo è media 4,4 volte uno stipendio annuale, cifra che aumenta notevolmente nelle grandi città come Barcellona o Madrid o anche la stessa Valencia. Secondo un sondaggio del quotidiano catalano La Vanguardia, il 77% dei lettori chiede una regolamentazione degli affitti da parte dello Stato. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Vi saluto, vi lascio con il resto dei programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche per chi ci ascolta online. Una buona giornata e appuntamento a domani con il notiziario, questa volta a cura di Barbara Schiavoni. Buona giornata, buon ascolto. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Minuti, dunque è il momento di cominciare dunque la lettura dei giornali all'interno di Radio Zanardi, e lo facciamo dalla pagina esteri andando in Oriente, perché in India il governo del BJP, questo gruppo indù estremista sciovinista, ha creato una legge per cui impedisce la immigrazione di musulmani. Su questa odiosa discriminante si rivoltano le università, e allora leggiamo dal Corriere della Sera: gli studenti di Delhi, che è la capitale, polizia barbara, atrocità, comportamenti barbari, così gli studenti indiani condannano la polizia che sabato e domenica ha caricato una loro manifestazione pacifica contro la nuova legge di cittadinanza, ferendo decine di persone. La legge della cosiddetta discriminatoria contro i musulmani, di cui le proteste pacifiche, eppure la polizia ha usato lacrimogene, proiettili di gomma e manganellato fino a fargli perdere i sensi decine di studenti di università islamiche come la Jamia Millia Islamia di Delhi o la Algari Muslim University del Uttar Pradesh. Le proteste non cessano in tutto il paese. Questo è il flash breve ma incisivo che arriva dal Corriere, ricordando che i giornali italiani a volte sono scandalizzati anche giustamente di questa normativa di legge del BJP indiano, ma ricordiamo come qualche anno fa la stessa Fratelli d'Italia propose di dare precedenza all'immigrazione tradizioni con radici cristiane rispetto a quelle islamiche, quindi tutto il mondo in questo senso è tristemente paese. E allora Cristina Piotti dal Fatto Quotidiano, intervenendo su questa vicenda indiana, tutti tranne i musulmani, la norma sugli immigrati esclude dalla cittadinanza i fedeli di Allah. Oggi la maxi manifestazione di protesta, anche perché i musulmani in India non sono certo pochi. Il paese delle mille anime sprofonda nel nazionalismo, questo dice la Sagnia Ponam. Si sta indebolendo la storica pluralità nell'accoglimento dei rifugiati indipendentemente dalla loro fede. Insomma, l'India è un paese che, se diventa integralista etnico, esplode in mille pezzi, in mille frammenti. Poi andiamo invece a Babbo Natale che porta i doni mentre Erdogan porta i droni, e quindi siamo nel Corriere della Sera: il volo dei droni su Tripoli e la gente su nei bar aspetta le bombe dei russi. Questo accordo tra Erdogan, Russia e Haftar sembrerebbe in qualche modo portare acqua al mulino di guerra di Haftar, che ha già indicato un giorno dell'attacco per la futura e presunta presa di Tripoli. Il sultano turco invia i droni di famiglia a difendere Tripoli, appartiene al genero di Erdogan, alle aziende costruttrici dei velivoli senza pilota spediti in missione in Libia. Quindi c'è anche un elemento di guadagno personale, come sempre tra le guerre anche i trafficanti di guerra e di morte sono quelli che si guadagnano. Nel frattempo è arrivato, sappiamo che ci racconta i giornali, il nostro ministro degli esteri in Libia. Di Maio in Libia fa la spola tra i nemici, logica inclusiva, ma evidentemente può poco di fronte a questi vasi d'acciaio. Di Maio che si scopre il vaso di coccio. Dopo Sarraj l'incontro con Haftar, il generale ribelle, se l'avessi conosciuto prima avremmo avuto un accordo. Qui è peccato, fuori tempo massimo, dice Haftar. Il premier libico difende l'intesa con Ankara, se l'Europa assente e viva le armi turche, che viene anche ricordato dalla stampa. La freddezza di Tripoli, siamo sotto l'assedio, ci servono armi turche, mentre Italia contro il patto Turchia-Russia e ora riaprire il consolato a Bengasi, perché l'Italia poi ha paura che in realtà in questo senso Erdogan soffi le poste di petrolio, prima contesi da Macron, ora dal sultano di Ankara. E dalla pagina del Sole 24 Ore, dopo aver ricordato la missione di Maio, l'analisi che arriva da Roberto Buongiorni: la sfida impossibile di riconciliare le diverse di anime di un paese che non c'è, oddio no, che è stato distrutto con bombardamenti sul paese di Gheddafi. In realtà la frattura tra Cirenaica e Tripolitania non si è mai ricomposta, senza contare le divisioni tribali. Sì, allora guardiamo anche dalle pagine del Manifesto. Il ministro Di Maio, che secondo il quotidiano manda messaggi confusi da Tripoli a Bengasi. L'Italia c'è in Libia, ma deve recuperare il terreno perso nei mesi scorsi. A dirlo era stata la vice ministra degli esteri Marina Sereni, e nel tentativo di recuperare, appunto, arriva, ecco, la missione diplomatica Di Maio, che ha incontrato tutti i principali protagonisti della crisi libica, prima a Tripoli col premier Sarraj e poi a Bengasi, dove ha avuto un incontro con Haftar, che da aprile assedia la capitale Tripoli. Poi è stato anche a Tobruk per visitare, appunto, il presidente del Parlamento rivale di Tripoli. Ma infierisce il Manifesto: il conflitto non si ferma, perché, appunto, ci sono, nella partita della diplomazia poi si inserisce la realtà tremenda della guerra, e con appunto lo scontro che continua. E, ad esempio, con Sirte, la città dove droni degli Emirati Arabi, quindi provenienti dagli Emirati, donati generosamente, hanno ucciso ieri, appunto, un uomo e ferito tre membri di forze fedeli al GNA. Questo, appunto, questa situazione, la situazione che certo non può risolversi con tre colloqui, ma d'altronde lo stallo, come dire, è uno stallo che poi è contagioso, nel senso che, ad esempio, nella stessa pagina il Manifesto ci dà anche un ragguaglio di cosa succeda in Iraq. Strage di manifestanti in Iraq, gli Stati Uniti fingono di non vedere, e il bilancio dei manifestanti uccisi dal 1 ottobre di 511, che non è poco, con accuse che vengono rivolte allo Stato iracheno di complicità nelle stragi compiute da uomini armati, e con appunto accuse che arrivano anche da organizzazioni umanitarie come Human Rights Watch, che ha pubblicato un rapporto in cui si sostiene in maniera abbastanza aperta che lo Stato iracheno abbia in qualche modo, l'autorità statuale abbia appaltato la repressione appunto di queste proteste. Andiamo in Francia, quasi 2 milioni di no alla schiforma, così la che definisce Luana De Micco del Fatto Quotidiano, alla schiforma delle pensioni. Oggi incontro tra governo e sindacati, il premier Philippe, stop ai regimi speciali. Senza corrente, energia interrotta dai dimostranti, 90.000 case sono rimaste senza luce. Come conferma anche La Stampa, la Francia paralizzata dalle proteste, reti sabotate, 90.000 case senza luce, conferma anche Martinelli dal giornale torinese. Nuovo sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron, ferrovie in tilt, chiusa la Tour Eiffel, blackout provocati dai sindacati tra la Gironde e Lione, il premier Philippe è costretto a negoziare. La proposta che ha scatenato la rabbia, età pensionabile 62 anni, vedete come in Italia 67 e anche oltre, ma là in Francia ci sono ancora i sindacati evidentemente, ma niente soldi fino a 64, questo è quello che racconta la proposta che è definita irricevibile evidentemente dai manifestanti. Il contropiano, giornale comunista online, dice: il secondo Brexit, lotte di classe in Francia e il che fare che ci aspetta. Il che fare naturalmente rivendica a una posizione rivoluzionaria radicale, ma sulla descrizione gli stati si trasformano in dati di provvidenza per le multinazionali, miliardi di euro di regali senza l'ombra di una contropartita, esoneri fiscali che si aggiungono all'evasione fiscale, la politica dell'offerta ha creato una situazione di keynesismo alla rovescia, la provvidenza va ai più ricchi e all'austerità riservata alla grande maggioranza, una parola al mondo del lavoro. Da 15 anni più sinistra e destra hanno spinto nel vicolo cieco nel neoliberismo, le politiche di austerità condotte dall'Unione Europea hanno sostenuto profitti colossali e la loro trasformazione in rendite speculative. In Inghilterra, poi parleremo di Boris Johnson, come in Francia o ancora peggio in Italia o in Grecia, si lavora con la pistola puntata dietro la schiena o non si lavora affatto, in modo precario, salari e prestazioni sociali si sciolgono come neve al sole, racconta Contropiano. Allora dicevamo l'Inghilterra, che passiamo dal giornale comunista al giornale della Confindustria, a dimostrazione che siamo ampiamente pluralisti. Sulle 24 ore Johnson punta sulla hard Brexit e la sterlina torna a indebolirsi, la nuova clausola Nicole degli innocenti, sulle 24 ore giornale rosato di Confindustria, il testo che andrà ai comuni vieta di prolungare il periodo di transizione, resteranno solo 11 mesi per negoziare la nuova partnership con l'Unione Europea. Sì, allora guardiamo anche il manifesto che è La Repubblica. La Repubblica oggi va a intervistare il cancelliere dello scacchiere nel governo della May, Hammond, ex ministro delle finanze, tradotto in italico. Ora l'Unione Europea venga a patti con Johnson, la Brexit è una realtà. E dice appunto, dice Hammond, i migranti dall'est hanno sfavorito i britannici non qualificati, per dare una spiegazione. Francia e Inghilterra appunto accostati dalla Repubblica con la riforma previdenziale di Macron, ma appunto con ad esempio il manifesto che oggi dice la protesta va oltre le pensioni per quanto riguarda la Francia, mentre appunto l'Inghilterra appunto si prepara a correre verso la Brexit, come ci dice anche il giornale, che però poi invece guardando Oltralpe ci annuncia che perché poi insomma bisogna anche guardare un po' il dorato mondo della finanza e dell'economia, dalla famiglia Peugeot ok alla fusione con l'ex gruppo Fiat, oggi la firma dell'intesa, venerdì a Torino il piano verrà presentato ai sindacati Fiat, superati gli ultimi ostacoli, timori per l'eccesso di produzione in Europa. Devo dire che a proposito di Francia, Exochan, altro gruppo che è francese, ma insomma poi ceduto alla Conad, che dice no a ricollocazioni del personale. E quindi veniamo al clima, ambiente e politica. C'è un brutto clima, avrebbe da dire, intesi in Europa sugli investimenti verdi. La notizia è, come dire, dovrebbe essere ovvia, ma diventa una buona notizia visto come era messa la vicenda. Nucleare e gas esclusi dalla blacklist. L'Unione c'è, anzi, una bruttissima notizia, scusate, perché l'Unione Europea cede al pressing francese, quindi mi sembrava impossibile, infatti ho dovuto leggere quello che i miei desiderati, invece è esattamente il contrario. Nel clima verde ci entra anche il nucleare, questo è perché dei commissari espertissimi hanno deciso che il nucleare non fa male, in particolare quando esplode come Fukushima o Chernobyl. La norma serve al settore finanziario per determinare le operazioni sostenibili. L'energia atomica verrà considerata utile alla trasformazione verso la neutralità climatica, quindi ci verrà anche i finanziamenti dallo Stato. Il nucleare è salvo per la gioia della Francia. Gli investimenti dell'atomo saranno considerati utili alla transizione verso la neutralità climatica. Spesso discorso per il gas. Al momento non c'è una vera e propria lista degli investimenti buoni, ma però quelli vengono messi dentro nei buoni, a prescindere di quelle nucleare e gas. Comunque, ma il compromesso raggiunto in sede dell'Unione Europea si limita a citare quelli che sicuramente non lo sono, come ad esempio i combustibili fossili, questo è quanto. Ma di fronte a questa triste notizia, quasi una beffa per tutti quelli giovani, non giovani, sono mobilitati, e che per l'ambiente, che temono per il nostro vecchio globo terracqueo, abbiamo il caso che di un paese che potrebbe fare la differenza, speriamo che sia vera, anche perché è un paese che ha visto un boom dei verdi alle elezioni, quindi probabilmente segnato da questo dato politico. La Germania guida la lotta alla CO2, cioè la anidride carbonica, chi inquilina pagherà per le emissioni. Il piano del governo di 25 euro a tonnellata di anidride carbonica prodotta, così aziende private faranno scelte ecologiche. Le tariffe entreranno in vigore dal 2021, in cambio incentivi a treni ed energia verde. Immaginate voi se in Italia il governo giallorosso, giallo-verde o giallo che mettesse una legge che chi inquina paga per le emissioni. Che casino succederebbe? Ha messo una tassina sulla plastic tax, sembra che adesso il mondo, una cosa del genere farebbe crollare l'Italia. Allora è il caso di sentire Michael Jackson, che con questa tristissima Earth Song, la canzone della Terra. E tra gli esteri e le cronache italiane ci mettiamo sempre il Vaticano, perché non sappiamo mai come considerarla, se cronaca italiana o cronaca estera, ma facendo finta di libero Stato e libera Chiesa, mettiamolo tra gli esteri. Pedofilia, la svolta del Papa. Abolito il segreto sugli abusi commessi dai chierici, vittime fino a 18 anni. Diventano pubblici i processi, le decisioni e anche le denunce. Via il nunzio sotto accusa in quel di Parigi. È il Corriere della Sera che mette questa notizia, ma molti giornali lo fanno con grande evidenza questa mattina. Abolito il segreto sugli abusi commessi da chierici, dunque chiese e pedofilia, una svolta storica. Con due documenti Papa Francesco abolisce il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici e decide sullo stesso tempo di cambiare la norma riguardante il declino il delitto di pedopornografia, facendo ricadere nella fattispecie dei delitti più gravi la detenzione e la diffusione di immagini che coinvolgono i minori fino all'età di 18 anni. Prima l'età era quella di 14. Questo è un Papa Wojtyla che Papa Bergoglio che intimamente nulla concede in questo sammarcio di ristrutturazione della Chiesa, e ovviamente man mano che porta verità e luce nella Chiesa aumenteranno anche i nemici, immagino. Preti pedofili, Papa cancella il segreto pontificio sui processi, conferma Ferruccio Sansa dal Fatto Quotidiano. Chi denuncia abusi potrà conoscere le decisioni delle prese dalla Santa Sede, i tribunali ordinari potranno chiedere al Vaticano gli atti che fino ad oggi erano inaccessibili. Linea Francesco, così definita dal Fatto Quotidiano, decisione storica, ora causa più facile per appartenenti al clero accusati di pedofilia. La cosa si tinge anche di sangue per questa tragica vicenda in Argentina. È un sacerdote, suicida il parroco stupratore di Scout, era accusato di 5 gravi casi di violenza, si è ucciso poco dopo l'ordine di arresto. È anche La Stampa, chiudiamo questa serie, pedofilia rivoluzione di Papa Bergoglio, e Juan Carlos Cruz, uno dei molestati che per primo hanno denunciato i sacerdoti, dice a Salvatore Cernuzio della Stampa: Francesco coraggioso e controcorrente, per noi vittime cade un muro di omertà. Tanti vescovi cardinali contro il provvedimento perché temono emerga il sommerso. Sì, una riforma potrebbe essere anche presa come modello per la riforma invece ancora impantanata della giustizia italiana. Il Papa e giustizia sia, questo è il titolo della Repubblica. Lo strappo di Francesco, che toglie il segreto di Stato agli atti dei processi canonici sugli abusi sessuali, un gesto d'accusa contro l'omertà di molte diocesi. Viene mandato via il nunzio francese indagato per molestie. Da oggi tutti i tribunali potranno chiedere documenti al Vaticano. E nel commento Alberto Melloni dice che la svolta è storica e che in qualche modo si va oltre il confessionale, quindi non c'è più segreto di Stato. Bergoglio apre alle vittime, conosceranno la condanna decisa per i loro aguzzini. E c'è un'intervista a parroco psicologo, Don Hermes Luparia, il diacono che cura le vittime. Il vero lavoro è far capire che il loro è un crimine. Le diocesi li mandano anche per evitare che lo rifacciano mentre sono sotto processo. Alleluia, esulta il manifesto con come dire titolo pasquale più che natalizio, a proposito di questa notizia appunto della caduta del segreto pontificio, una decisione epocale che dà il via libera alla collaborazione con i magistrati di altri paesi, perché appunto gli atti dei processi non potranno più essere negati dalla dalla natura statale del Vaticano. Quindi un primo passo. Secondo Francesco Zanardi, presidente della rete L'Abuso, la più importante associazione italiana di vittime di preti pedofili, ora serve l'obbligo di denuncia. È un punto di partenza, un buon punto di partenza, ma le vittime di abusi vivono vite sfasciate per le violenze subite, non riescono a trovare un lavoro, vanno aiutate a rialzarsi. L'obbligo di denuncia potrebbe avere anche una funzione preventiva, dice appunto Zanardi. Della rete L'Abuso. Anche guardiamo anche il giornale, che in un taglio basso dalla prima pagina scrive: il Papa consegna i preti pedofili alla giustizia, storica decisione, reato fino alla maggiore età delle vittime, finora la soglia invece erano i 14 anni. E allora, visto che non siamo insensibili al Natale, guai a dirlo, andiamo a Onorevole Natale. La canzone natalizia firmata dagli Spartiti Uniti, cui si definiscono, un gruppo di parlamentari bipartisan, deputati e senatori che per l'occasione sono fatti musicisti. Citiamoli: Francesco Paolo Sisto, Forza Italia pianoforte, anche autore di musica e testo; Les 5 Stelle Maurizio Buccarella alla chitarra; Giorgio Mulè, sempre Forza Italia, al flauto traverso; Fratelli d'Italia, scusate, Maurizio Dattis alla batteria, Forza Italia, un disco che andrà per beneficenza 5 euro. Altri con loro: Patti Labate, 5 Stelle, Ilenia Lucarelli, Maria Teresa Bellucci, Fratelli d'Italia, Carmelo Miceli, PD, e Valtteri Zetto di Fratelli d'Italia ancora. Per Musica Village, sentiamone qualcosa. A te che grazie a Dio la tua mano mi dai senza paura e cantiamo soltanto gioia vera, libera e sincera. Mi hai dato le illusioni, i suoni e le luci, dei giorni vuoti e pieni negli occhi, nelle mani. Difficile rimanere insensibile a questo canto di Natale, riprende la nuda cronaca politica dei giornali, ma questo è il nostro lavoro, e quindi, trattenendo il magone che ci ha preso e la commozione, leggiamo col Corriere della Sera: Marco Galluzzo, Conte vede Grillo, c'è molta sintonia, il mio cuore batte più a sinistra. Parliamo del Premier che fa la letterina di buoni propositi da mandare a Babbo Natale. Lavoro per il 2023. Si vede che non ha fiducia nel 2021-22 nel governo. Salvini si sgonfierà, bonus fino a 2000 euro per chi usa la carta di credito. Questo è il quadro che arriva dal Corriere della Sera per quanto riguarda il nostro Premier. Ma sul versante della manovra, La Stampa con Flavia Amabile dice: per gli insegnanti 80 euro in più, ma pochi fondi per le università. Dunque, se sono spostati il bonus ai studenti, quello tanto al chilo di Renzi, agli insegnanti, ma rimane che appunto questo vulnus dei soldi per i lavori universitari. La delusione del ministro Fioravanti, che aveva chiesto maggiori risorse, viene segnalata appunto da Flavia Amabile, mentre Paolo Russo, sempre da questa pagina della Stampa, dice che per quanto riguarda la sanità, una buona notizia evidentemente, sparisce il super ticket dei medici di base, accertamenti gratuiti, stanziati 300 milioni per l'assunzione del personale, sono 2 miliardi previsti dalla manovra per l'ammodernamento degli ospedali, e sono 235 milioni stanziati per l'acquisto di strumenti diagnostici. Sì, allora vediamo la sfida di Conte, secondo il titolo del Carlino: tasse giù del 30%. E naturalmente è arrivato il sì al decreto fiscale, diventa legge il carcere per gli evasori, tutte le novità raccontate appunto dal Carlino per il giro di vite anche sul contante, il tetto per il cash scenderà a 1000 euro, bonus invece per i pagamenti digitali. La lotteria degli scontrini slitta a luglio, slittano anche le multe ai commercianti senza posto, slitta un po' tutto, devo dire, però ad esempio tariffe di luce e gas svolta rinviata, cioè rinvio e slittamento sono i termini preferiti. Venerdì appunto in Consiglio dei Ministri il decreto mille proroghe, slittano le norme sulle azioni collettive e la riforma delle intercettazioni, quindi sempre all'insegna dello scivolamento. E allora guardiamo anche le pagine della Repubblica appunto su quanto si sta consumando, e con appunto questi slittamenti che vengono, come dire, trattati, o meglio su cui si scivola in maniera come dire, molto, molto disinvolta, mentre dal Giornale il titolo di apertura è ancora sul decreto fiscale: dopo le tasse le confische, manette agli evasori e sequestro dei beni per i sospetti, pagelle anche ai contribuenti. Sulla manovra però ballano ancora 2 miliardi con il commento di Nicola Porro, l'ennesima cambiale sul nostro futuro. Tra dietrofronto, compromessi e correzioni, la manovra tradisce molte promesse. Il mercato libero luce e gas potrebbe essere rinviato al 2022, i gestori sono 400 ma mancano le regole ed è difficile districarsi fra le varie offerte. E poi, appunto, secondo dal piano come dire, del legale al piano politico, la manovra c'è ma Conte no, premier sempre più isolato. Conte fa finta di niente, persino sul vertice svolta fallito, questo secondo, questa naturalmente è l'analisi del Giornale, mentre dalle pagine del Manifesto, sempre a proposito dell'azione del governo, la maggioranza torna al tavolo anche sulla giustizia, si va verso una tregua, leggesi slittamento, mentre per quanto riguarda il taglio dei parlamentari c'è un referendum in vista. I senatori che hanno firmato la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari sono vicini a raggiungere la soglia di un quinto richiesto dalla Costituzione per appunto chiedere, indire un referendum, e quindi probabilmente potrebbero e dovrebbero arrivarci, e quindi si va anche in questo caso verso un slittamento sotto forma di referendum. Nel frattempo, dice il Fatto Quotidiano con Antonella Mascali, prescrizione, sventato il blitz del centrodestra, riforma buona fede perché Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia sconfitti sul rinvio al 2022, la legge Orlando sulle intercettazioni posticipate di 6 mesi. In Senato le vittime di reati e la politica dicono serve una legge che faccia giustizia, così segnala il Fatto Quotidiano. Ma c'è questa polemica con la Casellati che, usando chiaramente fin troppo i suoi poteri di Presidente del Senato in modo illecito, dichiara la legge sulla cannabis fuori dalla manovra finanziaria perché non omogenea al resto del testo, eppur sì che si parla di lavoro, di tanti posti di lavoro nei negozi e nel mercato, ma c'è anche un'altra cosa che la signora, sempre con la stessa logica, ha cassato: la legge sulla Tobin Tax, c'è questa tassa che per fare così, per penalizzare i salti della quai di una finanza impazzita. E allora guai chi tocca la speculazione finanziaria, ci suggerisce la redazione. Oltre alla regolamentazione della cannabis light, dalla discussione sulla manovra economica viene stralciato anche un provvedimento che riguardava questa Tobin Tax, una piccola tassazione per le transazioni finanziarie speculative. Era una vecchia battaglia del movimento No Global, che incontra sempre ostacolo della lobby neoliberista. Ne abbiamo parlato con Giulio Marcon, portavoce della campagna Sbilanciamoci, sentiamo le sue parole. Ovviamente il giudizio è negativo. Ricordo che la Tobin Tax, o almeno una quasi Tobin Tax, è stata introdotta dal governo Monti con la legge di bilancio del 2012, e già era una Tobin Tax all'acqua di rose, e con questa legge di bilancio si proponeva una modifica che era quella di tassare lo 0,04%, quindi niente, alcuni movimenti online, alcune transazioni finanziarie fatte online. È stata bloccata, e questo, diciamo, è un fatto ovviamente che noi critichiamo in modo netto, anche perché, ripeto, già la Tobin Tax che abbiamo è una Tobin Tax molto, molto light, poi questo cambiamento che introduceva un piccolo aggravio per alcune operazioni online è stato bloccato, e questo ovviamente non può che essere stigmatizzato. Tra l'altro, il problema è un problema che deve essere affrontato in sede europea, ma già i paesi possono fare qualcosa, quindi l'Italia avrebbe potuto introdurre con questa modifica un miglioramento della precedente normativa. Questo purtroppo non avviene, e probabilmente ci sono pressioni delle banche, degli operatori finanziari che hanno portato a questo risultato negativo. È curiosa la motivazione con cui è arrivato questo stop, no? di inammissibilità del tema. Se non se ne discute durante la manovra economica, quando? La Casellati si è dimostrata una presidente che in alcuni passaggi di questa legge di bilancio non si è comportata in modo super partes, ma ha giocato come un giocatore in campo, quindi non ha fatto l'arbitro, sia il blocco della misura sulla cannabis light, sia questa misura erano misure assolutamente compatibili con la legge di bilancio, e invece la Presidente del Senato autonomamente ha deciso che non erano compatibili. Questo è un fatto abbastanza grave, anche sulla valutazione che possiamo dare dell'indipendenza di questa Presidente, che rischia invece di essere inficiata da questi comportamenti. Io ricordo che il tema della Tobin Tax fu sollevato a inizio secolo da quello che veniva definito il movimento No Global, poi c'è sempre stata una grande fatica per riuscire anche solo a discuterne nel nostro paese. Quali sarebbero gli effetti virtuosi di questa tassa? Ma sarebbero due: tanto molti più soldi nelle casse pubbliche, in secondo luogo il blocco di una serie di attività speculative, di transazioni che vengono fatte in frazioni di secondo solo per speculare, e questo non fa bene all'economia, non fa bene alla nostra finanza. Quindi la Tobin Tax fa bene all'economia e porta più soldi nelle casse pubbliche. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E questo era Marcon di Sbilanciamoci. Come ogni anno quando si fa la manovra, vede che ci sarebbe un'altra nuova possibile rispetto a questa che viene regolarmente sancita con voti di decreti leggi, ma in Parlamento. Ci diceva che oltre a Tobin Tax anche la legge sulla cannabis light, la Casellati ha cancellato con un colpo d'ala di faccia tosta. La Russa è l'insulto urlato, io li ricevo, nessuno ne parla, perché durante questo dibattito ha gridato a un senatore dei 5 Stelle drogato, e allora caricato sulla stampa, dice il senatore di Fratelli d'Italia, il Rolla gridava, avrei potuto dirgli sesso e non drogato. Questo gli ha fatto una sorta di sconto. Ma andiamo avanti. Per cui, sempre dal Corriere della Sera, c'è questa novità che agita il mondo della politica, l'incontro tra i due Matteo, che è cominciato con un incontro sulla legge elettorale, ma molti temono che sia un passo avanti per un governo di unità nazionale per far cadere questo governo. E il leghista Molinari difende l'iniziativa di Salvini e lo fa dal Corriere della Sera con Marco Cremonesi, che ne prende atto. Patto bipartisan per votare in fretta, centrodestra frenato da veti di altri. Dice Molinari ancora, Forza Italia vuole un piano di coalizione sulla legge elettorale? No, riguarda tutti. Quindi noi continuiamo a parlare con Renzi. E allora replica Renzi, o i renziani, in questo caso è Rosato di Italia Viva, raccolto sempre dal Fatto Quotidiano, ma dal Monica Guerzoni. Il dialogo con Salvini, interesse nazionale. E quando si comincia a parlare di interesse nazionale, gatta ci cova. Di Maio polemizza con Renzi per distrarli dai suoi problemi interni. Sul Rosatellum, lo provammo con l'opposizione, se ci sarà un proporzionale la soglia del 3 del 5% non ci spaventa. Ettore Rosato, deputato e capogruppo di Italia Viva alla Camera. È arrivato anche Grillo a Roma per cercare di mettere insieme i 5 Stelle che perdono i pezzi, e allora il fondatore della linea 5 Stelle, se cade il governo siamo morti. Grillo con Casaleggio a Roma, non convincerò nessuno a non lasciare. E poi c'è il caso Paragone, che non lascia ma fa da pontiere con la Lega. Le sardine, il garante è rimasto sorpreso dalle sardine, ma noi all'origine eravamo diversi. Non c'è dubbio che tra il vaffanculo di Grillo e le sardine che vanno di pace c'è un abisso di differenza. Sì, allora guardiamo anche le pagine del Giornale con Di Maio, che tra una missione in Libia e l'altra, un incontro in Libia e l'altra, teme il golpe, torna e affianca Grillo con i parlamentari di 5 Stelle. Nel frattempo, ad esempio, ci sono anche le mosse del centrodestra raccontate dal Giornale. Mara Carfagna lancia Voce Libera, la sua nuova associazione politica, mentre è stallo appunto per quanto riguarda le candidature per Forza Italia. Invece poi molti giornali oggi affrontano non solo appunto le novità che ad esempio la Repubblica, l'arrivo di Grillo a Roma, Grillo prova a placare il caos 5 Stelle, dovete parlare col PD, la stretta di mano con Conte, e poi l'intervista al primo deputato della Lega Lombarda nell'87, Giuseppe Leoni, un pioniere. Bossi tradito da Salvini, noi siamo federalisti, non i nuovi fascisti, ma insomma una sorta di De Profundis legato alla vecchia alla vecchia Lega. La nuova Lega è quella di Savoini. La Cassazione dice i telefoni restano ai PM, il caso Moscopoli, respinto il ricorso sul sequestro dei tre cellulari, e quindi almeno a livello giudiziario la vicenda va avanti. Ma a livello giudiziario c'è un'altra vicenda che oggi conquista le prime pagine, ed è appunto quella della Popolare di Bari. E ancora banche, tanto per cambiare. Patuanelli dice, si lamenta il ministro, Banca Italia non fa vigilanza, e poi c'è la lite sul senatore Grillino Lannutti, ex di Pietrino, ex consumatore, associazione dei consumatori, che è stato, come dire, candidato per la guida della commissione banche. E allora ecco, c'è un fuoco di fila, devo dire davvero non da poco, perché la Repubblica intervista Maria Elena Boschi, che di banche se ne intende, quell'antisemita non lo voteremo mai, la mia famiglia è stata massacrata su Etruria ma non cerco vendette. Certo che insomma magari non una vendetta, ma sembra qualcosa di molto simile. Il Giornale non ci va, non la tocca più piano, perché leggo dalla prima pagina: Lannutti vuole indagare la banca dove lavora il figlio, perché appunto il figlio del senatore lavora da 4 anni all'ufficio enti nella capitale della Popolare di Bari. Il senatore incontra Grillo e si fa difendere da Di Pietro e dice: tiene botta, non rinuncio alla commissione, ma dagli alleati PD è un coro, si faccia da parte, anche perché a Lannutti viene rimproverato il fatto di aver dato credito ai protocolli di Sion, come gli rimprovera il Emanuele Fiano del PD. Nel frattempo però sulla Popolare di Bari spuntano i conti taroccati dalle indagini della Guardia di Finanza. Le intercettazioni rivelano che i manager truccavano i dati delle filiali, secondo appunto questi file audio che cominciano a circolare. Un'inchiesta che anche Repubblica oggi approfondisce con il super testimone Luca Sabetta, assunto nel 2013 come capo dell'area rischio, punito e allontanato dai vertici quando cominciò a far domande sulla Tercas, la cassa di risparmio di Teramo, che è stata che venne acquisita dalla Popolare di Bari nell'operazione che in qualche modo ha fatto saltare il coperchio. Così hanno distrutto la Popolare di Bari. Perché super testimone? Perché lui ha registrato di nascosto i suoi colloqui con l'amministratore delegato, e quindi ecco che i file audio sono ampiamente a disposizione dei magistrati. Dalla tragedia alla farsa, anche altri giornali riportano la Boschi che dice: quell'antisemita non lo voteremo mai, la mia famiglia è stata distrutta dove? Auschwitz, Treblinka, Belsen, Mauthausen, no, a Banca Etruria. Dalla tragedia alla farsa, per l'appunto. Ma Popolare Bari, dice Sole 24 Ore, la Consob indaga sui conti veri e mai comunicati. Si vede che la Consob legge i giornali per indagare adesso, meno male che va in edicola. Spunta un audio di De Bustis: dirigenti, avete truccato i conti. Questa cosa è una bomba, evidentemente. Il Sole 24 Ore la mette sempre come suo stile redazionale, con un certo aplomb. Il Corriere invece da un paginone intero: Pop Bari, audio shock, conti truccati. L'ex amministratore delegato De Bustis in un incontro con i direttori di filiale, manager irresponsabili. E poi c'è una protesta davanti al tribunale con la professoressa, che così mi hanno fatto perdere 440.000 euro, e non è poco. E da Fanpage questa intercettazione telefonica che dice appunto, riporta anche il Fatto Quotidiano, il trucco, avete truccato i conti. Ma la notizia che arriva dalla stampa: solo 300 clienti non possono comprare, così la Bari piazzava via azione ai risparmiatori. La relazione di Banca Italia 2017 sulla vendita dei prodotti dallo sportello per sostenere il capitale. Spunto un audio dell'ex amministratore delegato De Bustis: manager responsabili, truccati persino i conti delle filiali. E naturalmente questa cosa qui è rimasta in sonno fino a che ci è scappato il bubone completamente. La commissione d'inchiesta però sulle banche è slitta di nuovo, perché guai toccare. Il candidato presidente di 5 Stelle Elio Lannutti è bruciato anche di me, bruciato anche Di Maio l'ha scaricato. In pool c'è il deputato Raduzzi, economista anti-MES del famoso patto di stabilità di intervento delle banche. Siamo tutti tristi e poveri, ma siamo anche molto beceri, perché ci vediamo sempre d'anche di tutte queste banche che ci ludono così, da lunedì al venerdì. Ci promettono grandi tassi, ma poi ci applicano i ribassi. Ma solo noi abbiamo pagato, loro hanno solo guadagnato, e le banche che ci hanno dato nel presente e nel passato. Bancomat, ci hanno dato il bancomat, e senza alcun diktat ce l'hanno dato pure gratis. Bancomat, reclamavi il bancomat, c'è chi tiene il portamat e tu invece tieni il bancomat. Sempre meglio del viasat, che solo col bancomat migliori tuo abitat. Bancomat, ci hanno dato il bancomat, e senza alcun diktat ce l'hanno dato pure gratis. Bancomat, bancomat, bancomat. Bancomat. Ma che ce ne facciamo di questo bancomat qui? Dei soldi non ci stanno, né adesso né tutto l'anno. Siamo pronti a prelevare, ma nessuno ci vuol pagare. E al banco tu devi andare, se anche devi respirare. Ma forse dobbiamo ringraziare le banche, se non risparmiano neanche le persone tristi e stanche, ma che ci hanno dato queste banche. Bancomat, ci hanno dato il bancomat, e senza alcun diktat ce l'hanno dato pure gratis. Bancomat, reclamavi il bancomat, c'è chi tiene il postamat e tu invece tieni il bancomat. Sempre meglio del viasat, che solo col bancomat migliori tuo abitato. Bancomat, bancomat, bancomat, bancomat, bancomat. Trovavo il bancomat, stavo uscendo proprio matto, come compravo i miei KitKat. Bancomat, ci hanno dato il bancomat, e senza alcun diktat ce l'hanno dato pure gratis. Bancomat, bancomat, bancomat. Bancomat. Grande voce, grande pianismo per questo bancomat, davvero abbiamo sentito sotto un virtuoso della tastiera. Comunque andiamo allora al mondo del lavoro e dell'economia. Ha già segnato Piero, lo fa in Sole 24 Ore in primo titolo: auto, fusione FCA Peugeot, ora la sfida è sull'elettrico. Ve libera dei due CDA al protocollo di accordo, oggi la firma ufficiale. Mi ricordo quando il vecchio CEO della Fiat diceva che l'elettrico era una bufala, sembra che ci abbiano ripensato. Nel futuro CDA i francesi 5 posti in più su 11 più Tavares, e i cinesi riducono le quote, le sinergie spingono le car con l'integrazione spazio e moduli già usati in quel di Francia. E dalla fusione, sempre con Sole 24 Ore, sempre dalla prima pagina, vediamo Alex Silva, l'accusa di Arcelor ai commissari, al tribunale di riesame ricorso contro lo stop dell'autoforno Forno 2. Il primo ricorso al di Arcelor non è andato molto bene, vediamo quando era il secondo. Una memoria difensiva, un duro atto di accusa contro i commissari dell'Ilva di Taranto e il governo, che ha cambiato le regole. ArcelorMittal ieri ha depositato al Tribunale di Milano la memoria di costruzione dell'ambito del procedimento relativo al ricorso d'urgenza presentato dal commissario Ilva in amministrazione straordinaria contro lo stesso, la multinazionale dell'acciaio, per scongiurare il suo disimpegno da Taranto. La memoria è stata depositata in vista dell'udienza fissata per il 20 dicembre prossimo. Non è una mossa aggressiva, spiegano fonti vicine alla società, ma insomma insomma, ma solo un passaggio procedurale. Arcelor infatti prosegue nel confronto con il governo per trovare uno sbocco alla vicenda. Intanto a Taranto i commissari hanno a loro volta consegnato al tribunale al riesame il ricorso contro lo spegnimento del famoso altoforno 2. Guerra legale sull'Ilva, Arcelor attacca la procura, questo è anche la stampa. Nel frattempo invece all'Italia, naturalmente i compratori aspettano che l'Italia crolli completamente, lo Stato licenzi, faccia il lavoro sporco e abbassi la vendita per farsi di nuovo vivi e bussare alla porta dell'acquisto. Ogni tanto si fanno vedere per dire ci siamo ancora, eh? E quindi Roberto Giovannini da Economia e Finanza della Stampa: all'Italia il ritorno di Air France, all'Italia fuori, tedeschi lontani, Lufthansa chiede troppi tagli, dice il ministro Patuanelli. Il primo incontro del neo commissario Leo Grande sarà con Delta, anch'essa sempre lì alla porta che fa nei capolino. Sempre sul forno delle manovre internazionali, dazi, il caso è di Giuseppe Sarcina dal Corriere della Sera, diplomazia al lavoro per difendere i prodotti italiani, manovra a Washington per limitare l'effetto sulle nuove tariffe sul Made in Italy, in particolare il parmigiano reggiano. E veniamo anche alla sindacale, la storia è poco edificante, raccontata dal Fatto Quotidiano sugli stipendi d'oro, e la racconta Salvatore Cannavò. Un impiegato IMSS di Verona è accusato di aver violato la privacy sui compensi suntuosi dei dirigenti sindacali. Il sindacato si costituisce parte civile, non è che ci chiede scusa, si costituisce parte civile. Pezzotta si infuria e si appella al leader. L'ex segretario CISL Furlan ha mostrato un gesto di dignità. Sì, allora sulla pagina del lavoro oggi dei giornali è variamente disseminata da questa apparizione ieri a Bologna di Ken Loach, il grande regista inglese venuto a presentare in Cineteca il suo ultimo film Sorry We Missed You, che uscirà poi agli inizi del nuovo anno, e naturalmente è stato lo spunto questa presenza di Loach a Bologna per parlare di tante cose, dalle recenti elezioni inglesi ai nuovi lavori o vecchi con vecchi schemi, perché appunto il film il protagonista del film è un driver, uno dei guidatori di furgoncini che portano pacchi per ore e ore, per 12 ore al giorno. Allora il manifesto con Giovanni Stinco riporta l'intervista a Loach, anche da un punto di vista con un titolo che appunto ci riporta le elezioni inglesi. Sono state le elezioni più terribili della storia, contro Corbyn solo odio, ha detto Loach, contro di lui un livello di violenza che non si era mai visto. Un uomo di pace è stato chiamato terrorista, un uomo che ha passato la vita a combattere il razzismo è stato tacciato di essere razzista. Queste accuse sono arrivate anche dall'ala destra del Partito Socialista. Ma poi naturalmente si è passati dalla politica, dai partiti alla vita reale. Due terzi dei nuovi lavori in Gran Bretagna sono precari, abbiamo milioni di poveri. Se tutto questo è avvenuto è anche colpa del movimento dei lavoratori e del sindacato. Adesso Loach si è chiesto, adesso lo ascolteremo proprio dall'incontro che c'è stato ieri in Cineteca, si è chiesto una domanda che ha ribadito più volte: di chi è stata la colpa, la responsabilità, se i lavoratori oggi sono ridotti in questo stato e hanno perduto tante di quelle tutele, di quei diritti che avevano così faticosamente conquistato. Si è chiesto Loach in maniera retorica, toccando poi e collegando, come dire, alla situazione di questi lavoratori anche tanti altri temi, come ad esempio il cambiamento climatico, quindi il problema del clima, che non è certo aiutato appunto da questo traffico continuo appunto di questi mezzi che sono in strada. Ascoltiamo adesso appunto le parole di Ken Loach ieri appunto da Bologna in Cineteca. Thank you to the Cinematheque for showing the film. Grazie alla Cineteca per aver proiettato e mostrato questo mio film, e grazie ancora per averlo visto nella sua lingua originale, perché c'è una bella differenza. Beh, l'idea di questo film è nata quando stavamo girando il penultimo, cioè l'ultimo film di allora, che parlava del problema di una povertà estrema, e facendo ricerche per il film siamo andati nelle food bank, le banche alimentari, cioè dove vanno le persone a prendere da mangiare e perché altrimenti non mangerebbero. E la cosa che ci ha sorpreso è che una buona parte delle persone che andavano al banco alimentare perché per poter mangiare lavoravano, non erano disoccupati. E quindi, in poche parole, persone che lavoravano l'intera settimana e non avevano abbastanza per dare da mangiare alla loro famiglia e ai loro figli. E quindi abbiamo pensato che dovevamo andare un po' più in profondità. E ciò che avevamo intuito e che sapevamo già da prima è diventato molto chiaro. Cioè, in poche parole, il lavoro è cambiato e tutto ciò che avevano, che hanno raggiunto i sindacati come garanzie e diritti negli anni passati stavano scomparendo. Quindi molti lavoratori non vengono pagati quando si ammalano, non hanno le ferie pagate, quindi non hanno diritto a una giornata lavorativa di solo 8 ore e di una settimana di 35 ore, non hanno l'assicurazione quando lavorano sul lavoro, quindi se si fanno male, si infortunano, devono pagare. Beh, per noi questo è avvenuto in un periodo di 40 anni e bisogna condannare apertamente il movimento dei lavoratori e dei sindacati per aver permesso che tutto questo accada. Noi siamo la maggioranza. Noi siamo la forza preponderante nelle nostre comunità e noi abbiamo permesso che questa crudeltà prendesse piede. Dov'è la speranza? Where is the hope? Well, we are bleeding in Britain at the moment. On Thursday we lost the biggest election in my life. Adesso stiamo sanguinando in Gran Bretagna. Abbiamo perso la scorsa settimana le elezioni più terribili della storia della Gran Bretagna. Il programma della sinistra avrebbe sicuramente trasformato la situazione. Avrebbe di nuovo affermato i diritti dei sindacati, l'avrebbe garantito per tutti i lavoratori dal primo giorno di lavoro. Avrebbe stabilito un salario minimo per sostentamento della famiglia, un minimo, e avrebbe di nuovo dato i diritti anche di rappresentanza dei sindacati, che questi diritti dei lavoratori e dei sindacati sono stati portati via da Margaret Thatcher. E avrebbe restituito al governo o alle strutture pubbliche tutte le grandi utilità, le aziende di gas, acqua, eccetera, i treni che sono stati privatizzati. Quindi avrebbe ridotto sostanzialmente il potere che è nelle mani del grande business e grandi imprenditori e azioni sui lavoratori, dando loro dei diritti che gli erano stati portati. Beh, la risposta della destra è stata selvaggia, forte, estrema, ma prevedibile. È stato liberato un'ondata di odio nei confronti dei leader della sinistra. È stato un livello di abuso, di violenza che noi non avevamo mai visto in precedenza. Un uomo di pace è stato chiamato terrorista, un uomo che ha passato tutta la vita a combattere il razzismo è stato tacciato di essere un razzista. Ma queste offese, questi abusi non sono venuti solo dalla stampa di destra, ma anche dall'ala destra del Partito Democratico. Cioè, è un tempo straordinario. Questo. E la gente che ha perso siete voi, è come voi, perché è il movimento, e non voglio chiamarlo rivoluzionario, ma lo chiamo progressista, viene proprio dalle classi operaie. E questo mette in dubbio, ci fa porre delle domande sulla capacità, la possibilità di arrivare alla difesa dei diritti, al restituimento dei diritti attraverso il Parlamento. La democrazia si basa su uno scambio libero di idee, e quando queste idee non vengono nemmeno prese in considerazione né dibattute, dobbiamo davvero porci la domanda se viviamo in una democrazia. Beh, la speranza non può che risiedere nella lotta continua, non possiamo fermarci. Then we have to ask, do we really live in a democracy? The hope has to be in the continued struggle, because we can never stop. Segna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E naturalmente che Loce è protagonista anche nelle cronache locali. Fernando Pellerano, per esempio, dal Corriere della Sera: lavoratori lottate, riders e casse integrati, elezione del regista in Cineteca per il film sui sfruttati della gig economy, Sorry We're Missed You. E poi dice appunto: lotta continua, questa è per Ken Loce l'unica via. E allora dalla lotta continua di Ken Loach agli ultimi spiccioli di notizie che troviamo oggi sulle pagine dei giornali prima di andare alla cronaca locale. Beh, intanto clima di odio. Beh, leggiamo questo titolo del giornale: Italia di handicappati, paradiso per noi zingari. Una rivelazione, uno scoop. Intercettazioni shock di ladri rom a Milano. È incredibile, è uno scoop del giornale in prima pagina. Di questi due rom di origine bosniaca finiti in un'indagine che ha portato 8 arresti per borseggio nella metropolitana milanese, naturalmente che serve al giornale per disegnare appunto questo clima fra l'altro anche beffardo, secondo appunto il quotidiano di Sallusti. Meno attento ad esempio sul caso Regeni, con un trafiletto estremamente più ridotto su Regeni, le torture, poi i depistaggi, audizioni in commissione parlamentare, insomma niente di che, come dire, è tutto scontato. E poi, a proposito del clima, trasporto e politica, Luca Beatrice, che è un critico d'arte, un curatore, dal giornale parla di questo di questa campagna contro il razzismo che ha suscitato molte polemiche della Lega Calcio. Le tre scimmiette, l'opera antirazzista nel calcio, scandalo miope da moralisti, le scimmie di Fugazzotto accusate di discriminazione mentre parlano di uguaglianza. Quindi ci sarebbe stato un equivoco, ma d'altronde di equivoci è pieno il mondo, perché leggo anche dalla Repubblica, a proposito di mondo, di questa vicenda che arriva dagli Stati Uniti, anzi è l'étoile afroamericana Misty Copeland, ballerina, danzatrice americana famosissima, che ha attaccato il Bolshoi, ballerini truccati da neri, la Copeland contro appunto il teatro. Durante le prove due ballerine bianche erano state dipinte di nero. Devo dire che è quasi più grottesca la risposta del direttore del Bolshoi, Urin, che rifiuta le critiche. Una pratica normale in Russia, dove mancano le ballerine nere, anche volendo, cioè le cercano in tutti i modi, ma non riescono a trovarle. Comunque questa appunto è la polemica che è finita sulle pagine dei giornali. Poi sempre dalla Repubblica, a proposito di clima, anche Loach ne ha accennato, come dire, il clima non è solo esercitazione, un'esercitazione accademica, ma è una cosa molto concreta. E allora oggi la Repubblica ci racconta questa odissea dall'Islanda a Genova, che è un bel pezzo di strada, l'odissea da record delle orche nel porto. Hanno viaggiato per 5.000 chilometri e non è finita. I biologi dicono, per salvarsi devono andare via, quindi devono ancora fare della strada. Una migrazione così lunga e incredibile non era mai stata registrata prima, segnalano appunto i biologi su questa incredibile viaggio appunto che si è compiuto. E poi abbiamo dal Carlino, da un lato gli italiani sempre più malati di sesso virtuale, cifre record per il sito Pornhub, video amatoriali sono i più ricercati. E poi invece la fiction coraggiosa, la serie sui ragazzi down batte tutti gli ascolti. Il protagonista, l'attore Gabriele Di Bello, 25 anni, appunto con sindrome di Down, e dice: adesso guardateci negli occhi, bullizzato fino a scuola, fino a farmi ammalare, ma siamo orgogliosi del risultato della prima puntata di Ognuno è Perfetto, che parla di disabilità abbattendo barriere e stereotipi. Notizie di questa mattina che parla di repressione sulla Val di Susa, 14 misure cautelari nei confronti leader e militanti del centro sociale a Scatasuna, quello torinese, e di esponenti di altri centri sociali di Modena, Vicenza e Padova. Gli indagati, da sempre impegnati nelle iniziative contro la TAV, vengono accusati a vario titolo di resistenza aggravata pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. L'indagine riguarda in particolare l'ala più transistra, conta così il flash agenzia del movimento No TAV, la Digo sta eseguendo altre 16 perquisizioni. Da questo veniamo invece alla cronaca locale. Bonaccini gioca là su Filicori, l'apertura del Corriere della Sera di Bologna. Il manager della cultura si candida alla lista civica del presidente e poi il Corriere mette anche a seguire gli altri nomi. Endorsement di Montezemolo per il governatore, non so quanto possa averne beneficio Bonaccini. Il Premier Conte in Emilia non voterei a destra, anche qui c'è un altro endorsement. Bonaccini dunque ruola a Filicori, naturalmente conosciamo la sua opera prima a Bologna e poi dopo la Reggia di Caserta. Oggi dice lui, capolista, stimo Renzi ma non sono il suo candidato, questo è il tema che arriva dall'ex 5 Stelle chirurgo di Rimini, decola la lista del presidente ma rumore di PD sui renziani presenti in questa lista. Mentre dall'altra parte è entrato in Fratelli d'Italia Antonio Margini, che è padre di uno dei bambini di Bibiano, cui è stato definito per portare in prima fila con la Borgonzoni la storia che i comunisti non mangiano più bambini ma li danno in affido. Allora Margherita Grassi contro il sistema Bibiano, il mancandato della Meloni non è nell'inchiesta degli affidi, quindi c'entra come il cavo alla merende. Il lite con la moglie per i figli, denunciò i servizi sociali, questa è la vicenda. Non hanno trovato esattamente uno specchiato in questa, per questa versante di cronaca. People Mover, la regione in pressing, una data in partenza entro il voto. Beh sì, bisogna farlo mostrare la vetrinetta. Anche il comune richiama e convoca Marconi Express, che vuole portare il biglietto a 9,50 euro. Dice no, almeno dopo le elezioni portate il biglietto a 9,50 euro. Ora immaginate voi chi prende la navetta per 9,50 euro quando in due ti paghi in taxi. Ma questo sono i misteri degli appalti. Il ticket sarebbe dovuto costare 7 euro, e l'aumento dovrebbe scattare a luglio del 2020. Sì, a proposito della lista Bonaccini, Felicori appunto il capolista, dice anche Repubblica, il manifesto però guarda anche alle grane, in lista l'imprenditore Carlo Fagioli che licenziò 516 fattorini con un SMS, ma tutto nella legalità, si difende Fagioli. Che dice di non capire la polemica, di avere dalla sua parte le sentenze che gli hanno dato ragione di avere rispettato sempre la legge. Poi invece abbiamo Repubblica che guarda anche l'altra sinistra di Stefano Lugli, segretario regionale di Rifondazione, capolista a Bologna, un argine al liberismo, con lui ci saranno Stella Dante, ex grillina eletta con i 5 Stelle quartiere Navile, e Mauro Collina del bar La Linea, mentre con la Borgonzoni, oltre a Lady Papete, arriva anche il figlio di Bulgarelli, indimenticato campione del Bologna, che aveva già tentato la candidatura con il Carroccio nelle ultime amministrative bolognesi. Questo sul fronte del voto. Ma poi c'è, secondo Repubblica oggi nel suo titolo di apertura, c'è una protesta che corre da destra a sinistra. I signor no dei comitati, di destra o di sinistra, purché siano comitati, la mappa in città dei comitati. Dai no tram alla rigenerazione urbana, ai duri della piazzola, ognuno è alla sua protesta, ma soprattutto i partiti sono pronti a spalancare le porte. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si contendono il bacino degli anti-tram a colpi di candidature. Poi però nel traffico urbano c'è anche chi va contromano, ed è l'arcivescovo Zuppi nel documentario di Emilio Marrese, il cardinale immortalato mentre pedala in via dei Gombruti nel senso opposto. L'ala dura dei ciclisti lo adotta, l'associazione Salve i Ciclisti dice lo vogliamo come testimonial perché è ora di cambiare le regole. Ovviamente questa immagine, questo frame tratto appunto dal documentario, oggi campeggia da un po' su tutti i giornali. E poi dalle pagine invece del Resto del Carlino segnaliamo che sul fronte del lavoro Lazzarri chiude ancora, insegne abbassate per lo storico esercizio di via Ugo Bassi, se ne vanno tutti i dipendenti, e mentre per il gruppo, la crisi del gruppo Maccaferri, i fondi vogliono la maggioranza, trattative in corso per le aziende metalmeccaniche con la rabbia della FIOM che lamenta, non ci hanno detto nulla di nuovo, sicuramente sarà dismessa la parte immobiliare. E poi sul fronte giudiziario, mentre per la festa di Natale alla Dozza arriva Gianni Morandi con altri imprenditori della città, Vacchi, Seragnoli, Marchesini, l'aula bunker pronta per il processo Emilia, realizzato in tempi record, ospiterà i processi di mafia con molti imputati. E questo è tutto, quindi a seguire abbiamo Fujiko Comics in compagnia di Rachele Copparone, sempre all'ascolto della nostra frequenza. Ciao a tutti.